A che cosa serve la residenza? La residenza ti serve per la tua salute. Con la residenza puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale. Per iscriverti ti rivolgi all'AUSL, Azienda Unità Sanitaria Locale. La residenza ti serve per il tuo lavoro. Con la residenza puoi iscriverti nelle liste di collocamento e nelle liste di mobilità per la ricerca di un lavoro. La residenza ti serve anche per avere indennità previdenziali ed assistenziali. La residenza ti serve anche per chiedere o rinnovare la carta di identità. La residenza ti serve anche per iscrivere i tuoi figli a scuola e nei servizi educativi. La residenza ti serve anche per chiedere sostegni economici e sociali. La residenza ti serve anche per ottenere un'identità digitale, SPID. Se sei un cittadino italiano o comunitario, la residenza ti serve per votare.